Satanata, i suoi occhi sono spenti, mi vede e ti grigna i denti. Poi si gira e si cammina, verso la pallida stradina, e porta a quel cimitero, consacrato da tutto il clero. Poi alza le mani al cielo, ed urla con intente zero. Sono ancora spaventato dal suo aspetto disumano. Mi avvicino lentamente al suo fisico possente. Spero almeno la sua mente non sia poi così deficiente da scambiare la compassione per un iter da ricchione. Quando un tratto lui si gira